qui al Verano, e niente, lei si chiamava Teresa, era da giovanissima entrata in Fiat, era operaia Fiat da giovanissima, chiaramente in un periodo in cui la realtà della Fiat esplodeva grazie alla mobilitazione, ai percorsi di auto-organizzazione rivoluzionaria degli operai Fiat, insieme alla gran parte, da tanti settori operai e proletari, e lei ha partecipato subito legandosi ai settori del movimento antagonista della così chiamata sinistra extraparlamentare, allora la sinistra rivoluzionaria, insomma questi erano i nomi, e dopo un po' di anni decise di entrare nelle Brigate Rosse della colonna torinese, e poi partecipò alla scissione che produsse il Partito Guerriglia. Fu arrestata, condannata all'ergastolo come la gran parte dei militanti, ha fatto tanta galera soprattutto nei carceri speciali, famigerato carcere femminile di Voghera, dove erano in uso strumentazioni elettroniche per impedire che le compagne prigioniere tra loro comunicassero, potessero comunicare, insomma questa difficile carcere. Poi alla fine, come tutti noi più o meno, finita quel triste percorso, ha riacquistato anche lei da qualche anno la libertà. Purtroppo la sventura si è accanita, e per un incidente d'auto stupido, cioè l'auto che aveva fermato si è sfrenata improvvisamente, gli è venuta addosso e l'ha schiacciata contro il muro, quindi è morta così, purtroppo per un accanimento della sventura. Ciao Teresa, che la terra ti sia lieve, e un abbraccio a tutte e tutti coloro, vivi o morti, che hanno alzato la testa per ribellarsi a questo sistema. All power to the people. Yeah, yeah. Act proud. Yeah, they're the struggle that they win. Take your sacrifice. Take your sacrifice. 'Cause you don't know if it's an afterlife. If it's an afterlife. Yeah. Take your sacrifice. I live for the day, no time to play. Ain't got no time for no games. Remember the song when I'm dead and I'm gone. Bury me dead in the flames. Make them remember your names. Taking your claim in this lifetime. Steady your aim. Everything to gain. And it's rightfully mine. Kutulu Shakur opened the door. Took me up under his wing. I sat at the table and drank from the ladle. And now I got something to bring. Salute to the youth that walk with the truth and ready to get their stripes. You never too young. Remember they hung. 'Cause now they giving a strike. Body hunting. Yeah, body hunting. I say it again and again. First to join. First to die. In the pants for self-defense. 15 years old. The brother was cold, he had the heart of 1,000 men. Long live his name, I think about him when I train, so now we gon' win. Fred said, don't ever be scared, 'cause you too young to die. 'Cause you feared, you already did, now you just paralyzed. Determine your destiny, take the future into your hands. If anyone can do it, then you can. Take your sacrifice. Take your sacrifice. 'Cause you don't know if it's an afterlife. If it's an afterlife. Take your sacrifice. Take your sacrifice. 'Cause you don't know if it's an afterlife. If it's an afterlife. It's so serious, yeah, it's so serious. Emergency is cardiac arrest. If you thuggin', then you better wear a vest. This is the reality, it's not a test. Twyman Myers set him on fire, he was down with the BLA. He was 16 when he picked his team and sacrifice was made. When I say sacrifice, I don't mean to do nothing stupid. Participation is the best education, said Huey Newton. Scared money don't make no money, that's what they say in the streets. And victory is so sweet versus the agony of defeat. I'd rather die on my knees than live as a coward on my feet. And fuck dying, let's stop dying, if you with it then let's get free. The youth brigade, young and so brave, never get led to the slaughter. The next to claim the future, they the best of the sons and daughters. My back to the wind, my feet on the ground, we putting it down for the crown. But not no colony, fuck them is my philosophy, that's what I'm about. I learned from the Palestinians and the Mexican EZLN. The government that's down with imperialism can't be your friend. They bad boy politicians saying show me the Benjamins. But I'm throwing up RBG until the end. Take your sacrifice. Take your sacrifice. 'Cause you don't know if it's an afterlife. If it's an afterlife. Take your sacrifice. Take your sacrifice. E allora iniziamo la trasmissione Che cosa è successo in questa settimana? Esattamente mercoledì scorso, non ero in trasmissione, ed è successo proprio dalla mattina, in giornata viene fuori questa notizia di un suicidio, un ennesimo suicidio in un carcere italiano, e su Facebook, nella pagina di un sindacato di agenti penitenziari, quindi di guardie, di secondini, insomma, i commenti di questo ragazzo suicidato sì, erano tremendi a dir poco, cioè l'avrete letto da qualche parte, se ne hanno parlato anche i giornali, si sono cominciati a dare commenti tra di loro, le guardie penitenziarie, dicendo uno di meno, scalane uno dalla conta, diceva uno al collega. La conta appunto è quella che si fa, e altri dicevano meno male, cioè contenti, oppure che me ne frega, oppure diamo corda e sapone, così si suicidano tanti, insomma, tutti a urlare, a strillare vergogna, vergogna, vergogna, e però appunto pochi hanno cercato di capire perché degli esseri umani, perché che cosa avviene nelle carceri, al di là delle questioni di carattere, se vogliamo, superficiale, cioè che cosa, perché quell'inferno carcere produce un odio così forte tra uomini e uomini. Insomma, c'è per esempio qui sulla stampa di questa settimana anche Manconi, il senatore Luigi Manconi ha detto anche in carcere anche gli agenti sono vittime, ecco, messa così già non, vittime di che? Comunque, poi alcuni hanno detto sulle 24 ore sono stati sospesi gli agenti, tutti chiedono un'inchiesta da parte del ministero e poi anche della magistratura, altri hanno detto hanno parlato di cose, cioè chi ha infierito giustamente ha insultato a sua volta queste guardie, chi ha parlato di sottocultura, di inciviltà. Il problema è che poteva essere anche questa un'occasione, tante sono state le occasioni in quest'ultimo periodo per mettere le mani e capire quel mostro chiamato carcere perché produce questi effetti, e quello si sarebbe, così come si sarebbe dovuto domandare ai detenuti dopo il problema del sovraffollamento arrivati a livelli spaventosi, e poi grazie alle tirate d'orecchie della Commissione Europea di Strasburgo di imporre all'Italia di calare un po' il numero, perché i livelli di inciviltà e di tortura erano spaventosamente alti, cosa che è avvenuta, però ecco qui, anche questa è stata un'occasione mancata. I detenuti sono passati in effetti da quasi 70.000, 69.700 sono arrivati al picco più alto, poi grazie ai vari provvedimenti cosiddetti svuota carcere sono diminuiti un po', adesso intorno ai 54-55.000, ma nessuno si è preso la briga di andare a domandare ai detenuti, alle detenute, se nonostante sia calato il sovraffollamento stanno meglio, sono felici. Sta operando il percorso di reinserimento e di rieducazione, ecco, questo avrebbero potuto domandare, così come in questo caso si dovrebbero domandare, ma ciascuna persona, perché una guardia riesce ad odiare talmente tanto un detenuto o una detenuta, e perché allora, e lo dice perché la guardia lo può dire, perché insomma, poi al di là si prenderanno una sospensione, una lavata di capo, ma niente di più. Probabilmente lo pensa anche il detenuto o la detenuta, ha un rapporto, un sentimento d'odio verso le guardie, e non lo può scrivere sui social network, perché non ha internet chi sta in carcere, e soprattutto perché gli costerebbe troppo caro. Poi quando se capita lo dice pure, glielo dice in faccia, oppure con azioni con le rivolte, con le manifestazioni. Il problema qual è? Il problema è che aver costruito un mostro appunto come il carcere, in cui c'è una persona, un uomo che chiude la porta a un altro uomo, è chiaro che hai costruito il carnefice e la vittima, cara società cosiddetta democratica, e non c'entra niente che dice ma quello ha fatto dei reati, ha violato la legge, non c'entra, sono due cose diverse. Voi fate questo piccolo esempio, perché poi vedremo i numeri, perché sono usciti fuori i vari numeri del Censis su i furti che sono aumentati, no? La gran parte di chi sta in carcere ci sta per furto, per reati contro il patrimonio. Allora, una persona che ruba, dovunque sia, no? Sottrae un bene a un'altra persona. A chi ha compiuto, se viene arrestata questa persona, viene individuata, a chi ha tolto un oggetto a un'altra persona, gli viene tolto non un altro oggetto oppure più oggetti, ma la libertà. Ora, c'è un rapporto, secondo voi, tra libertà e oggetti, che ne so, una macchina, un mazzetto di soldi, un qualcosa che viene sottratta illegalmente, dite così, un furto sottrae dei beni, appunto si chiamano reati contro il patrimonio, un pezzo, qualcosa di patrimonio io te lo tolgo, nonostante che sia la tua proprietà sia tutelata da questa legge. Bene, uno potrebbe dire, vabbè, c'è la ritorsione, tu mi hai levato un oggetto, io te ne levo due, oppure uno, oppure qualche altra cosa, no, ti tolgo la libertà. C'è un rapporto allora tra una macchina e la libertà? Se io rubo una macchina mi si toglie la libertà, che rapporto? Non c'è un rapporto, non sono commensurabili i due valori, oggetto, bene materiale, patrimonio e libertà, no, come vedete. Quindi è proprio, non c'entra niente il risarcimento, perché il risarcimento dovrebbe essere fatto sul piano economico, che so, appunto tu rubi 100 lire e te ne faccio cacciare 200, ecco, se vuoi fare il punitivo, non un'altra cosa. Invece la penalità, quindi questo sistema di sanzione basato sulla sottrazione di libertà, la penalità attuata attraverso il carcere toglie la libertà, quindi sposta completamente la lancetta della punizione su un altro terreno, no? Completamente su un altro terreno, ed è appunto un sistema che, come ho cercato di spiegare in tante cose scritte a voce eccetera, ma tanti altri, anche tante altre hanno provato a spiegare, a raccontarlo, soprattutto chi l'ha vissuta, togliere la libertà è una cosa che inasprisce i soggetti umani che sono coinvolti in questa procedura. Qualcuno toglie, diciamo, viene incaricato di togliere la libertà ad altri. Tra le due componenti, i due soggetti, no, carceriere e carcerato, si scatena un odio incredibile. È inevitabile, è così, sta nelle cose. Non è che si può dire, non si può pensare che qualcuno tolga la libertà a un altro e a una certa ora gli chiude la cella a chiave, chiude la blindata, chiude lo spioncino, insomma, col sorriso sulle labbra. Perché essendo un essere umano, e non credo che ci siano, senza fare discorsi di carattere razziale, non è che qualcuno è cattivo di natura, è la struttura, la realtà, l'ambiente, il contesto. Quel contesto, se uno fa la guardia, in questo caso il secondino, cioè la guardia penitenziaria, ovviamente sta dentro un meccanismo che non può condividere. Poi sì, le ideologie sono tante, figurate oggi in questo triste paese la gran parte probabilmente condivide il carcere, ma perché l'hanno abituata e costretta, inserendo paure, se leviamo il carcere, tutte queste cose abbastanza inutili e stupide, e quindi la gente conferma il carcere, ma non nel caso si dovesse trovare tutti quelli ben pensanti che amano il carcere, no? Perché dice, ci sono delinquenti, buttateli dentro e lasciateli più a lungo possibile. Se poi dovessero avere a che fare con quel luogo, in qualunque ruolo, è chiaro che impazzirebbero, come succede a quei pochissimi rari personaggi, diciamo, che provengono dalle classi alte e che vanno a finire in carcere. E proprio questo, partiamo da questi numeri, perché di numeri abbiamo detto, ogni tanto ne esce qualcuno. Allora, visto che una dei modi di parlare cretino di questo paese, che sta sprofondando non nella crisi, perché non c'è crisi, c'è soltanto un tentativo dei padroni di fare più soldi sullo sfruttamento dei lavoratori, dei proprietari, semplicemente questo, viene chiamato enfaticamente crisi perché è uno dei tanti imbrogli, appunto. Dentro questa situazione, il problema qual è? Il problema è che tra le ideologie che viaggiano, ideologie sono falsa rappresentazione della realtà, tra i luoghi comuni che girano, tra gli slogan, la gente dice, se parliamo, diciamo, gente che appartiene alle classi basse, i proletari eccetera, uno dice, ma bisognerebbe togliere la galera. No, la galera ci vuole, perché se arrestano un ricco, dove lo mandiamo, no? Il problema è che non li arresta i ricchi. vi ricordate tutti, cioè, che se ci ascoltate da dentro le carceri, ricordate che un paio d'anni fa, quando appunto il sovraffollamento nelle carceri italiane aveva raggiunto livelli pazzeschi, che aveva fatto strillare tutti i giornali, commentatori eccetera, nei confronti dell'Italia, con accuse dicendo siete un paese del quinto mondo, siete incivili, perché livelli di sovraffollamento spaventosi, no? Non che le altre carceri negli altri paesi sono migliori, però noi avevamo raggiunto un livello veramente inaccettabile, quindi tutti a criticare l'Italia. Qui da noi si sono un po' vergognati, oddio, facciamo la fine dei paesi incivili eccetera eccetera. Bene, anzi male, e il problema è questo, è andato avanti per parecchio tempo, no? Questo fatto del sovraffollamento, non sovraffollamento, che bisogna fare, che non bisogna fare, i detenuti e le detenute, con quel poco di voce che hanno, perché gliel'hanno tolta, non perché non ce l'hanno, sanno strillare come, solo che non fanno uscire la loro voce sui giornali, i detenuti e le detenute cominciano a scrivere lettere, documenti, qualcosa in cui dicevano: ci vorrebbe l'amnistia. Amnistia e indulto, si svuotano le carceri abbastanza rapidamente e poi si fate tutte le riforme che volete. Questa proposta l'hanno sostenuta tanti altri, quelli che stanno vicino ai detenuti e alle detenute. Sì, vabbè, facciamo un'amnistia generale, un indulto, scaliamo 2-3 anni, eccetera, eccetera. Molti si sono opposti, no? La gran parte, difatti, no? Le forze politiche nella loro totalità, tranne rare eccezioni, non erano d'accordo a farla, difatti non si è fatta. E molti anche, diciamo, persone per bene, ragionevoli, diciamo vicine a noi, dicevano: no, no, per carità, che scherziamo, facciamo l'indulto o l'amnistia e poi i ricconi come ce ne mandiamo in galera? Allora questa, se facciamo un'amnistia, il primo che ne godrà qualcosa sarà Berlusconi, che uscirà subito da galera. Ma guardate che l'amnistia non c'è stata, ma Berlusconi in galera non c'è mai nemmeno lontanamente avvicinato. Vedete quante stupidaggini, cioè questo è un paese, è brutto dirlo, però di cretini, diciamo la verità, cioè nel senso, non perché sono cretini geneticamente, hanno fatto cose straordinarie nei decenni passati, perché credono alle favole che gli dicono televisione, vedono la televisione, per esempio, questo già è un errore, ma la vedono passivamente, anche se uno volesse vedere la televisione la può pure vedere, no? Però criticamente, dicendo lì ci sta una manica dei deficienti pagati a fare i deficienti e fanno rappresentazioni tutte false, sicuramente sbagliate, e perché mi devono imbonire, cioè farmi credere che Cristo è morto di freddo. A Roma si diceva così, no? Per dire il massimo della bugia, cioè quelli ci vogliono dimostrare che Cristo è morto di freddo. Allora, quando ero piccolo io molti modi di dire erano di provenienza cristiana, ma non per credenti, però per dire che l'assurdità è dire che Cristo è morto di freddo quando c'è stato tutto un flagello, una flagellazione di cui se ne narra, appunto, no? La nostra cultura perlomeno ne è piena. Ecco, si diceva: questi vogliono dimostrare che Cristo è morto di freddo. In realtà ci sono riusciti, perché raccontare la gente ci ha creduto che il carcere serve a mandare in galera i potenti, quelli che rubano, quelli che fanno gli imbrogli, tutto questo dilagare di corruzione, concussione, dove li mandiamo poi? Perché intanto c'è la campagna, ricordate Tangentopoli, no? Se ne è parlato, tutti i politici, imprenditori, finanzieri, bancari, banchieri, anzi... Bene, insomma, sapete quanti sono a tutt'oggi, cioè i dati sono sempre di un anno fa, dentro il carcere di persone condannate per corruzione e concussione, cioè quindi le classi alte che hanno rubato, su 60.000 detenuti circa, sono 230 persone, 0,006. Vi rendete conto quanto abbiamo la testa bacata? Perché ce l'hanno messo il bago dentro la testa, non perché ci siamo nati, e ce lo siamo fatto mettere, però è un modo cretino di ragionare, però eccolo qua, ce l'hanno insomma raccontata sta storia. Insomma, 230 persone, 0,6% dei detenuti, 230 persone sono dentro per problemi legati, cioè dei colletti bianchi, i reati dei colletti bianchi, siamo così, cioè corruzione, concussione, violazione delle leggi finanziarie, delle leggi fiscali, delle leggi, imbrogli finanziari, bancari, quelli nella borsa, tutte queste cose che fanno le classi alte e che tutti contenti, sì, c'è la campagna contro la corruzione, ma non va nessuno in galera. In galera ci va quelli che hanno rubato le mele, è inutile far finta, e non è un modo di dire, è così, la gran parte, questi sono i dati del Censis, potete trovarli su, addirittura ne ha parlato Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera il 20 febbraio, cioè qualche giorno fa, e diceva, anche lui ha riportato questi dati, i reati dei colletti bianchi non esistono, perché nonostante tutte le campagne mediatiche dicono soltanto 230 persone sono condannate per reati di questo tipo, quelli dei colletti bianchi, concussione, corruzione, falsi finanziari, in vari impicci che fanno, che sono abituati a fare loro. Tutti gli altri chi sono? Tutti gli altri sono piccolo spaccio di droga, furti, piccole rapine, cioè reati contro il patrimonio, in sostanza. Questo è il sistema detentivo italiano. Allora, per tornare all'inizio della chiacchierata, no? Quello che è successo al carcere a San Vittore, quando queste guardie hanno scritto poi su un social network, cioè su Facebook, hanno scritto i loro commenti volgari, indegni, infami sulla morte e suicidio di quel detenuto, di quel ragazzo che si è tolto la vita. È chiaro che non è una novità, non è che è successo, è una novità che si è trovata traccia scritta, perché adesso con questa mania, a cui ovviamente le guardie non si sottraggono perché non brillano intelligenza, a questa mania dei social network lì viene traccia. Ma chi ha fatto galera e ne ha fatta tanta sa che questo modo di dire è diffusissimo, proprio per quei discorsi che facciamo prima, perché quell'ambiente, quel luogo, quel fatto di che un gruppo di persone deve tenere a bada come fossero bestie tremende, pericolose, i detenuti, è chiaro che scatta un meccanismo d'odio tra le due fasce di persone, carcerieri e carcerati, che produce queste sensazioni. Quindi c'è sempre stata e ci sarà sempre, finché rimane quell'ambiente squallido, bestiale, che è il carcere. Il problema è non è che si può ingentilire il carcere, non si può. Potete mettere anche i profumi, i fiorellini sui tavoli, le tendine rosa, il carcere, poiché toglie la libertà, ossia il bene più prezioso, ma non è una parola astratta o filosofica. Libertà significa togliere l'insieme delle relazioni umane, di lavoro, di amicizia, affettive, tutto quello che permette, che noi chiamiamo vita. La vita di ciascuno di noi è fatta di un insieme di relazioni con altre persone, con altri, la passeggiata, l'abbraccio, andare a parlare con gli amici, al bar, a lavorare, a giocare a pallone, a fare le gite, tutto quello che è la nostra vita viene cancellato improvvisamente. Quella è l'assenza di libertà, cioè assenza di vita. Una struttura che toglie la vita, e che in questo luogo senza vita, che appunto i detenuti da sempre chiamano in maniera molto intelligente la casa del nulla, il carcere così è chiamato, è chiaro che produce voglia di scappare da chi viene tenuto a forza là dentro, e chiaramente a quelle persone, cioè le guardie che sono tenute a tenerti dentro, fa scattare tra i due soggetti opposti, carceriere e carcerato, una corrente di odio. Inevitabile, finché rimarrà il carcere ci sarà lì dentro odio. Il problema è che dobbiamo portarlo fuori, anche perché quel sistema che in carcere è visibile, no? Alcuni tolgono la libertà agli altri, cioè tolgono la vita, spezzano la vita, arrestano il procedere delle relazioni umane, ecco, tutto quel meccanismo lì c'è anche fuori, in maniera più sottile, più soft, più mascherato, però c'è anche fuori. E quindi non dobbiamo portare quell'odio che poi c'è, perché intanto poi esplode e tutti dicono oddio, perché è esploso? È esploso perché non è che si può tanto vivere così, e che non è che gli oggetti, anche tra l'altro diminuiscono sempre, ma anche se fossero tanti gli oggetti di cui ci circondano, i giocattolini con cui ci circondano, telefonini, dei computerini, in macchinetta, vestiti, in pitch imbrogli, possono lenire tanto la sofferenza che impone una mancanza di libere scelte, no? È chiaro, e quindi in carcere non c'è nemmeno gli oggetti, quindi è solo odio puro. Va bene, e questo è il problema, per quella così che tutti hanno, che i giornali hanno detto, adesso mandiamo in galera, dobbiamo rieducare le guardie. Il problema è che c'è sempre qualcuno che deve rieducare qualcun altro, qui non si rieduca nessuno con quegli strumenti, nemmeno con questa società è tanto facile rieducare qualcuno, tant'è vero che l'odio, per quanto sopito dalle relazioni non tenute soft, però c'è tanto odio, c'è guerra interna, ognuno vuole scavalcare l'altro, vuole primeggiare contro altri, e insomma c'è un po' un meccanismo brutto che questo andamento così di questa società basata sulla sopraffazione, perché sullo sfruttamento, quindi chiaramente lo produce. Diciamo però, a proposito dei colletti bianchi, no? I reati dei colletti bianchi, che qui hanno raggiunto la cifra spaventosa di 230 persone, cioè 0,6%, dice appunto nell'articolo di Gianantonio Stella, che analizza i dati del Censis, su questo aspetto, che è quello che gli interessa, e lui è quello che ha scritto sulla casta, sulle corruzioni, eccetera, quindi si sofferma sui dati rispetto alle tipologie di reati che il Censis ha messo in luce negli anni precedenti. E quindi ha visto questo, cioè l'Italia è il paese più basso in tutta Europa, o comunque uno dei più bassi, che ha la più bassa percentuale di reati di colletti bianchi che fanno reati in galera, cioè appunto i reati finanziari, l'evasione fiscale, i reati appunto falsi di bilancio, corruzione, tutti questi reati che riguardano i grandi, i potenti, no? Ecco, di questo è un numero veramente basso, e lo confronta con quello in Germania. In Germania è molto più alto, in Germania sono 7.900, quasi 8.000 persone per lo stesso tipo di reati, e qui solo 230. Questo, ecco, una considerazione che Gian Antonio Stella non fa, però dovrebbe far capire anche questo, cioè lì vuol dire che in Germania e anche in altri paesi, insomma, ci sono gli stessi colletti bianchi che fanno i reati, no? I potenti fanno gli stessi impicci che fanno qui, loro da sempre, le classi dirigenti nel mondo moderno sono nate, e anche in quello antico, sono nate facendo impicci, imbrogli, e quelli a cui vanno bene gli impicci, imbrogli, fanno soldi, carriere, e diventano potenti, e quindi assumono il ruolo di classi dirigenti, non per bravura, non c'è un sistema di questo tipo, non permette di selezionare i più bravi, ma i più impiccioni, quelli che fanno gli impicci e che gli vanno bene. E allora appunto fa questo, dice: come mai qui solo in Italia appunto è così basso, eppure i reati sono tanti, quelli dei colletti bianchi, mentre invece in più paesi come la Germania, la Svizzera, il Nord Europa, insomma, li colpisce abbastanza. Vuol dire che appunto qui vuol dire intanto che è diffuso dappertutto, non è solo un fatto italiano che i potenti facciano impicci, imbrogli. In altri paesi vengono però individuati e puniti, in Italia no, perché si mette più facile mettere dentro, o perlomeno così è il sistema penale è portato a mettere in galera quelli che fanno i reati contro il patrimonio, che sono oltre il 20%, oppure il piccolo consumatore, il piccolo spacciatore di droga, che sono quasi il 40%, mentre invece quelle, le classi alte che fanno i loro impicci le lascia vivere. Evidentemente la corruzione arriva anche a quelli che poi dovrebbero giudicare, perché se la magistratura non opera in maniera minimamente, no, obiettiva, non lo è manco lì. Ma l'altra considerazione che si dovrebbe fare su questo problema è anche questa, no? Allora, se è vero che in molti paesi, qui porta la Germania 7.986, quasi 8.000 in galera per cosiddetto appunto i reati dei colletti bianchi, prevalentemente fiscali, no? Quindi li fanno anche lì l'evasione fiscale, solo che lì li acchiappano e li mettono in galera. Qui da noi no, continuano a governare, a comandare. Ecco, il problema però dovrebbe far riflettere, e ci dispiace che una persona intelligente come Gian Antonio Stella non faccia questa considerazione, nonostante che per esempio in alcuni paesi come la Germania e il Nord Europa mettono in galera quelli che fanno questi reati fiscali, frodi fiscali, impicci finanziari eccetera, continuano, quei reati continuano, anzi aumentano. Loro li mettono in galera, ma quei reati aumentano. Che vuol dire? Vuol dire che così come la galera non impedisce a quello che ruba un pezzo di pane perché c'ha fame, e lo farà anche domani perché continuerà ad aver fame, anche le classi alte non vengono dissuase dal continuare i loro reati, perché quello è il loro modo d'agire. Il sistema capitalistico è nato dai banditi. I primi imprenditori erano i ladroni, i schiumatori del mare, i pirati, i corsari, ovviamente c'erano la benedizione dei, per esempio, della regina Elisabetta in Inghilterra, ma anche altri banditi, c'erano quelli del re di Francia, cioè, non parliamo del re di Spagna, cioè, tutti i banditi di questo mondo venivano aiutati, cioè, in qualche modo sollecitati dai governi, parliamo del 500-600-700, a fare rapine, a depredare mari e terre e portarli nelle casse di questi governi, perché loro ci potessero produrre eserciti e quindi partire alla conquista del mondo. Questa è la detta in soldoni, ma non è tanto distante dalla realtà. Certo, la realtà è più complessa, ma questa è abbastanza la fotografia degli ultimi 300-400 anni di questa parte del mondo. Allora, se è nata da lì, è chiaramente come dire, il DNA lì sì si è formato, mentre il povero ruba, se veramente è povero, perché quando c'era il welfare, per esempio, i reati contro il patrimonio erano diminuiti, perché uno che perdeva il lavoro c'era per esempio l'indennità di disoccupazione, che era non bellissima in molti paesi, ma permetteva di continuare a campare mentre ti cercavi l'altro lavoro. Ecco, questa cosa per esempio rallentava, diminuiva in quella fascia di popolazione i reati contro il patrimonio. Nelle classi alte non è che fai il welfare, che vuol dire il welfare? Invece hanno i miliardi che gli escono dagli occhi, non è quello. Loro continuano a fare impicci perché il sistema capitalistico, finanziario, bancario, eccetera, funziona soltanto sugli imbrogli, corruzioni, concussioni, imbrogli fiscali, imbrogli finanziari, imbrogli bancari. Questo è il portato del sistema capitalistico. È inutile che si può e non si può aggiustare, perché ci hanno provato da 200-300 anni e non vuol dire che non sortisce effetto. Men che meno sortisce effetto la galera, perché queste, laddove vengono messi in galera i colletti bianchi, continuano a fare i reati. Tant'è vero che qui ci dicono che, per esempio, in Germania addirittura il numero delle persone, dei colletti bianchi, cioè dei potenti che vanno in galera, aumentano. Quindi, nonostante che li mettano in galera lì, non come da qui che se ne vanno a spasso, lì li mettono in galera, nonostante che altri, i loro colleghi, continuano a fare quei reati. Evidentemente è connaturato al sistema capitalistico la cosiddetta violazione delle leggi esistenti. Qui da noi nemmeno li mettono in galera, quindi è ovvio che continuano a farla, ma non smettono nemmeno laddove li mettono in galera. Questo vuol dire che, anche riferito alle classi alte, il carcere non serve a niente, non serve veramente a niente, serve soltanto a produrre mortificazione umana, che non produce una diffusione di cultura relazionale valida per potersi incamminare in un percorso di cambiamento sociale adeguato agli esseri umani che popolano questo mondo. And smoking lots of conjo. When I go out to blues, all the girls can't refuse. When they see my leather trousers, my gold chain and my kung fu shoes. Drive clapped out old Porsches. Do sales girls at Tesco's wear boots number 7? Do you eat digestives at 11:30? Do you act your age or the size of your shoes? Has a man got to do what a man's got to do? The things we do, things we do, the things we do, the things we do. Do Leyland car workers vacate in Majorca? Do daily star crosswords while they're on the toilet? Do you talk in riddles or herbal diarrhea? Do you drink real ale then drown in your beer? Is this what we are? Is there nothing inside? If you swallow your food, would you swallow your pride? The things we do, the things we do, the things we do. what a man's got to do. Allora, 15 e 46 minuti primi, ancora in diretta. Dunque, è uscito un altro dato, no? I numeri, come si dice a volte, hanno la testa dura e quindi sì, poi possono essere plasmatici, ciascuno li racconta come vuole, però a chi vuole ragionare può ragionare. Dunque, dal 1991 ad oggi, diciamo al 2013, i conti sono sempre di qualche anno arretrato, per cui 91, 2001, 20 anni, 21 anni, e in 21 anni ci sono stati 23.000 casi di ingiusta detenzione, 23.000 casi, cioè 23.000 persone, non una cifra piccola, 23.000 persone in questi 20 anni, 21 anni sono stati messi in carcere ingiustamente, perché poi i processi hanno dimostrato che erano del tutto innocenti ed estranei ai fatti, e quindi lo Stato ha dovuto pagare 600 milioni di euro di risarcimento, lo Stato, quindi il denaro pubblico, cioè noi, i soldi nostri, non è che ce l'hanno messi di tasca quelli che hanno fatto questo errore. E questo l'ha detto, non è che l'ha detto uno qualsiasi, il vice ministro della giustizia Enrico Costa, durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario, parlano i pubblici, i procuratori generali, e poi però parlano parla anche appunto esponenti del governo. E a Palermo c'era appunto il vice ministro Enrico Costa, che ha dato questi numeri, tra i tanti ha dato anche questi numeri. Lui ha detto questo perché voleva sostenere con questa situazione da mettersi le mani nei capelli, 23.000 persone, tante, giustamente detenuti, e che poi palesemente non una persona che viene incriminata poi assolta, quelli casi sono tanti e lì non succede niente, ma proprio quelle persone, dov'è che scatta infatti il risarcimento? Quando una persona viene incarcerata, indagata e quindi messa in carcere per parecchio tempo, e su diciamo indizi del tutto vani, cioè inutili, non solo non ci sono prove, ma gli indizi sono addirittura inconsistenti, spesso per errore di persona, cioè sbagliano proprio la persona, cioè proprio palesemente errori palesi, per i quali appunto anche la Corte ha stabilito il risarcimento da parte dello Stato, 600 milioni di euro di risarcimento. Il vice ministro Enrico Costa ha sottolineato questo aspetto per dire che la giustizia ha necessità di alcune riforme. Ora, probabilmente una cosa del genere, più che di riforma, urla di dire vabbè, fermiamoci un attimo, perché qui non va bene niente, non c'è da fare una piccola riforma, qui c'è proprio da quel dato che abbiamo detto prima, che qui i potenti non la vedono nemmeno la galera, per cui care persone, quelle che è piena la strada, perché se voi adesso io qui scendo, siamo a San Lorenzo, ma in qualunque quartiere popolare scendiamo e diciamo alla gente, al primo che incontriamo, ai primi che incontriamo, sarebbe bene batterci per ridurre l'uso del carcere, addirittura abolire la galera, questi dicono no, e che scherzi, e i ladri di Stato, i potenti, i malfattori importanti, quelli che fanno le frodi finanziarie, dove li mettiamo? Dove volete, ma intanto non nemmeno adesso li mettiamo in carcere, perché se sono solo 230 a fronte di una media europea che sta sui 5-6 mila, le persone che fanno questi impicci, è chiaro che fa ridere, in Italia fa più a ridere che altrove, però anche altrove dovrebbe far capire che appunto il carcere non rieduca nemmeno i potenti, non rieduca ovviamente i proletari, perché se c'è fame devi in qualche modo mettere insieme il pranzo con la cena, e se non trovi una strada legale, cioè di lavoro legale per ottenerlo, devi utilizzare il lavoro extralegale, e quello è lavoro, non vi pensate che non sia lavoro, il lavoro extralegale è organizzato come il lavoro legale, tanto per essere con la sua organizzazione, con la subalternità, c'è cioè chi comanda e chi obbedisce, tutto abbastanza uguale. E insomma, questo era un altro numero su cui è bene riflettere. Ma ora si muove leggero per la città, non è più ragazzo, non è più ragazzo. Ma ora si muove leggero per la città, non è più ragazzo, non è più ragazzo. Ma ora si muove leggero per la città, non è più ragazzo. The government gangbang, the inner city blues like you work in the chain gang, popping bubble over like a bottle of champagne. I got a homie named Maintain, his attribute fit like a shoe, he gotta do what he gotta do to stay sane in the food chain. It's like a zoo, so true that either you chewing or getting chewed. You a rude boy, but they say you like crew, they cruel, making paper is their number one rule. You a tool in their belt, ain't that right, Plies, MC Hammer, DJ Screw, it's kinda nuts, that's what it do. You know they moving us out so they can move in the big bucks, and all I hear is in God we trust, so we ain't getting no justice. Remember it's just us, what's all the fuss about? The price of gas going up, the price of rice going up, the price of air going up, the price of life going up. This ain't living, this ain't living. Look, look, my people, we struggle together. Bubble, bubble together, make it to sunny weather. Hustle to get the cheddar, dig it to get the shovel, and get in where you fit in. I dare you to be different than the ones who went willingly, cause the system is killing me. Looking for a victory, questioning my ability, strength and agility, stamina, willpower. Will I see it while I'm alive? The real power, I'ma pop my politics. The almighty dollar gets smaller, big ballers, harder to get your wallet thick. Turn the hustle into Huey and the D-boy to Mutulu. Transform, shock you like a Zulu. We can stop the political circus and actually do something to help the economy. There are steps we can take right now to improve people's lives. You know they moving us out so they can move in the big bucks, and all I hear is in God we trust, so we ain't getting no justice. Remember it's just us, what's all the fuss about? The price of gas going up, the price of rice going up, the price of air going up, the price of life going up. Yo, this ain't living, this ain't living. Yo. We grew up in the same house, but not in the same room. Involuntarily showing each other we ain't cool. So I know pop hip hop sticks to the same rules. Black millionaires don't fuck with my fame food. Right on the same jewels, it ends up with Pac dying. Money's never nothing, it's someone who's not buying. Why wouldn't you stop lying? It's the difference between a rat and a squirrel. Niggas was treated different. Apples are Jesus scriptures and Moses is mixtapes. But your promised land don't have us in the mix, right? Harriet the R&B singer rented a whole train. It ain't going anywhere. where it was a movie. Now they're giving us Jose and asking if he can see. Not in front of brochures and watches you can't read. Someone's getting eliminated, it just ain't me. My people been told this day was coming through DP. Let down, bad breaks, setbacks, natural. Allora, ricordava infatti un ascoltatore, un compagno ascoltatore molto puntuale e si ricordava, perché sì, ricordavo anch'io, poi quando me l'ha ricordato lui mi è venuto in mente che addirittura negli Stati Uniti d'America c'è stata una sentenza scritta, perché in America queste cose hanno il coraggio oppure la faccia tosta di metterle per scritto, ossia che cosa? Che a un certo punto ci fu un miliardario, uno di questi, un capo delle multinazionali, questi uomini potenti del mondo, ma proprio potente, che aveva fatto una cosa indegna, tipo aveva violentato la figlia o la nipote, una cosa così, ma una cosa proprio tremenda. Beh, le prove erano tutte a carico suo. Durante il processo si fece il processo, lui risultò colpevole, quindi la sentenza disse: è colpevole di aver fatto questo e questo, però il giudice dice: non lo possiamo mettere in galera, perché in galera non ci possono stare le persone ricche, alte. La galera è fatta per i pezzenti, per i proprietari, e il carcere è di classe, questo lo sanno pure i sassi. Tanta gente però fa finta di non saperlo, perché ha detto: purtroppo siamo tutti drogati, ma non delle droghe quelle che siamo droghe, delle droghe ideologiche che girano televisione, quelle sono le peggiori, perché non ci sono controindicazioni, gli spacciatori di droga ideologica in televisione non vengono perseguiti, ma non vengono nemmeno disprezzati, non vengono nemmeno purtroppo vengono accettati, abbracciati. La gente dice che è veramente un momento di follia collettiva, che in senso brutto del termine, che speriamo passi presto. Il ragionamento critico è fondamentale. La prima cosa da fare quando si guarda la televisione è dire: aspetta un attimo, forse stai raccontando delle fandonie. Va bene, insomma, che il carcere è di classe, quindi ormai lo sanno pure i sassi. Qui a San Lorenzo, esempio, che ancora ci stanno le strade con i sanpietrini sono consapevoli. Meno consapevoli sono gli umani, uomini e donne, non so perché. Dunque, diciamo, e qui terminiamo questo, è stato ridotto il sovraffollamento di molto, tutti contenti, da 70.000 a 54.000, 55.000, eppure è arrivata una lettera di un compagno, anche questo, Davide Rosci, un compagno per i fatti dell'ottobre del 2011, ricordate, no? Quando la polizia fece quel disastro lì a Piazza San Giovanni. Ebbene, lui è finito al carcere di Viterbo, il famigerato Mamma Gialla, e lì racconta una cosa indegna, vabbè, che Mamma Gialla fosse uno dei peggiori carceri, ma non è che gli altri brillano. Comunque sia, il mangiare che gli passano non lo vogliono nemmeno i gatti, la carne che gli passano è roba andata male, roba che puzza, immangiabile, non c'è l'acqua, non c'è tutti i giorni, il materasso è una cosa schifosa, condizioni allucinanti. Eppure sono quasi 20.000 calati nelle carceri, quindi non era il problema il sovraffollamento, cosa che abbiamo detto fin dal primo giorno, quando abbiamo visto tutti anche qui i scribacchini di regime, no, chiamati anche giornalisti purtroppo, che dicevano: ah, il sovraffollamento, se facciamo calare il sovraffollamento il carcere tornerà a riacquistare i suoi obiettivi di fondo, rieducare e reinserire. Ma che ci avete nel cervello? La peggiore droga che esiste, cioè l'ideologia che ti fa vedere il mondo ribaltato sotto a sopra. Bene, noi diciamo a questa gente, a tutti quanti, cerchiamo tutti di vedere le cose in maniera più chiara. Rendiamoci conto che il carcere, così come il lavoro salariato, sono strumenti per tenere sottomessi le persone. Il carcere è una struttura di classe, vuole schiacciare le persone, quindi cerchiamo di non accettarlo il sistema carcerario, e questo è quello che possiamo fare per ora. Poi vedremo, intanto stabilire relazioni umane sulla critica del presente, criticando gli aspetti centrali di questo presente che è sempre immobile. Dicono tutti che cambia tutto, ma non è cambiato nulla. C'è il carcere che è sempre quello di prima, di 50 anni fa, di 60 anni fa, di 100 anni fa, anzi in qualche caso pure peggio. Il posto di lavoro è quello di 30 anni fa, molto peggio, perché oggi ti prendi il licenziamento più facilmente, pagato molto peggio rispetto alla ricchezza generale. Ecco, le differenze sociali tra